E chi lo fa? Non c'è mai nessuno qua. E che la menti tu? Ho fatto pure rubare il capo per cambiarlo, la notte, adesso che mi ha rubato il capo, sono già 3 giorni che non sento nessuno. Ah, hai piazzato il capo nuovo? No, mi ha rubato, lo devo piazzare, ma sono ben nessuno cosa piazza. Ehi, già ci sono io. E oggi facciamo come un po' a casa che siamo in due, andiamo bene. Uno qua e uno là. E allora, mi vengo là. Tanto io non posso manco uscire perché sono ammalato, via. Ha preso a me e a mia moglie, tutte e due crepati siamo. Bisogna stare attenti, Natale. Anch'io adesso ero fuori, mettendo le tasselle. Mi sa come sono preso qualcosa. Purtroppo così. Sente l'umido e neanche te ne accorgi, ti scusi. Ma abbiamo preso anche un po' d'acqua. Così. Io non ne ho visto mai così brutte di influenza, mamma mia, mi ha ucciso Bruce. E poi ha beccata tutte e due, manca a farla apposta, che ci prendeva prima uno e poi l'altra, adesso tutte e due contemporaneamente ci ha beccato, deve essercela contagiato qualcuno, Bruce. Natale, magari hai fatto anche il vaccino. Non ne faccio, no, vaccino. Che come ho fatto il vaccino mi ha preso di forza la dottoressa. E lì al rischio deve farlo. Vabbè, me lo faccia. Mi ha fatto il vaccino, l'ho preso 3 volte l'anno. Dalla volta non ne ho più fatto. Infatti. No, a me non mi si attacca, la verità. Non fa gente che c'è io. L'influenza non me la sono presa, magari poi domani adesso mi sento un raggio. In compenso già mi dedico ad altro, a cose più importanti. Ma purtroppo è così. Non ce la faccio mancare giorni in piedi. Sempre ti dà? No, perché sto prendendo la tachipirina. Sto prendendo. I primi giorni me la data un po'. Ma guarda, mi ha preso in una maniera tremenda. Mia moglie dorme e buh, e io invece non riesco a dormire. Almeno se sarei riuscito a dormire, manco me ne sarei accorto e sarebbe passata così. Invece no, non riesco a dormire io, buh. Guarda, siccome anche io ho questo problema, adesso non so, probabilmente non va bene per tutti, però ti do un consiglio di portare una bella camomilla la notte, non so se la fai a letto, però se vai a mezzanotte te la fai, che ne so, alle 11. Una camomilla calda, e ho posto di zuccherarla, anche di quelle istantanee, ho posto di zuccherarla con lo zucchero col miele. Secondo me a me mi fa dormire abbastanza bene. Ho provato anche quello, Gianfratti, sto dicendo, guarda, non riuscivo a dormire. Allora è brutto, non è preso altro pensiero. Però qualche settimana è passata, allora, d'altronde quest'anno è un anno proprio, come si dice, del merda. Annus horribilis. Eh sì, come ha detto la regina Elisabetta, annus horribilis. Hanno proprio da dimenticare. D'altronde c'ha sempre mettersi di rispetto, quindi no? Che porta figlia. Ah, più di quella che l'ha portata a me, più figlia di quella. Lo so, Natale, ognuno guarda i suoi mali, ma ti posso assicurare che ce ne sono veramente bombardati, nessuno da uno e ci passano sull'altro, quindi a volte conviene stare più zitti, guarda che è la cosa migliore. Lo so, ce ne sono peggio di noi, già lo so quello. Come dire, al peggio non c'è mai fine. certe cose che si vedono e si sentono veramente quando vive l'immigramento io, ma vedi un molto peggio. Vabbè, come ti deve fare? Salvi. Salvi. Adesso me lo festeggio bene il Capodanno. Come se non bastasse, adesso invece del 2 la pensione la pagano il 3, capito? Sta sempre cambiando stanno questi, veramente. È una cosa. Sentite, non so se avete visto il telegiornale, la gente che sta arrivando la richiesta di soldi di risarcimento dall'INPS perché dice che gli hanno dato troppo in pensione e cose di questo genere, ma sono delle cose che veramente non ci sono parole. Anche a mia moglie era successo, dice che gli avevano dato di più e quindi glieli hanno tolti. Un po' un tot al mese, ma glieli hanno tolti, ma la sorte. Ma qua stiamo parlando di 95.000 euro, di 200.000 euro, di pure di testa veramente. Ma fate pagare a chi ha commesso l'errore, no? Un pensionato, la centrale, perché i calcoli buoni ce la fate comunque. Dopo tu vai a guardarti il sito dei contributi e non ci capisci niente perché è talmente complicato che ce la fa giusto a malapena il capo a controllarlo. È veramente una cosa indegna, proprio dei banditi. Oui. Figurati, cosa ne sappiamo noi dei conti che fanno loro. E infatti è per quello che fanno quello che gli pare e piace. Per carità che stanno avanti i casini, quanta gente magari sta prendendo poco e aspetta molto. Tu figurati, qualcuno ho sentito dire è andato a farsi ricontrollare, ha detto ma sai che lei l'aspettava la prima di questa cosa. Ma poi vai a chiedere, dice, guarda il mio strada, ma la metto un po' tardi, ormai. Cioè, capito, quando sono loro che devono sganciare, allora passa tutto in cavalleria. Quando invece devi girare tu, allora ci diamo la mazzata. Sì, e se no, quando dicono che ci debbono controllare quello che spendiamo, dobbiamo avere la carta di credito perché così sono tracciabili i soldi. Ma a cosa? Si deve a sé a controllare a te come ti prendi di là. Non devi studiare a sé tu a controllare me, perché tu sei un mio impiegato, ti do a mangiare io con le tasse o no? È certo che sì, con le tasse tu stai pagando dei servizi. Però i servizi non sono buoni, ecco, per quello che paghiamo. Quindi siamo sempre più per capo. Uno va sempre perché tutti si chiedono, ma questi studi dove vanno? Adesso hai visto quelli lì, poveracci? Ne hanno fatto le casette, tutti festeggiando, i politici finicendosi la mano e ne stanno cambiando già pezzi. Ma com'è possibile un paese così, ma poveracci? Sì, poveracci che non hanno casa, con temperature che scendono sotto lo zero e la casa sta fasciando, ma stiamo scherzando. E ce ne sono di cose che non funzionano in Italia. Oh, yeah. No, lascialo così, forse. Allora, Gocca, di cosa vuoi ti dici? Ti sei stati sempre i drommelli, via da e da. Fa bene, guarda, fa bene. Non potresti fare io. Anche a me piacerebbe stare a dormire, però ogni tanto c'è una cosa da fare. E poi quando vuoi dormire non ci riesci. E quindi, vabbè. Non si è più sentito Marco, nessuno, boh. Sentivo a Claudio, non so con chi parlasse, perché l'altro non lo sentivo. Su. Me ne tocco la parola di bocca, guarda. Perché non come si chiama una volta? Falle squillare il telefono. Non devo disturbare nessuno, poi non mi sento bene, dai, veramente sono uno strano. E Marco sarà andato a dare il panettone alla famiglia. Può anche essere. Ma non solo lui, allucinante. Vabbè, è che è il 30, ma non è neanche il 31, ma... e di là è anche peggio, di là anche perché, insomma, qua bene o male, anche un'antenna non porta tantissimo. Di là invece non si sta macchiate, per cui parlare col muro. Anche di là stanno sparendo così. No, ma infatti io mi chiedevo, ma c'è ancora gente fissata, ma adesso vado su. Non riesco neanche a fare gli esami perché non c'è nessuno. E questi vanno lì. Boh, come si dice? A parlare col muro. Allora, col muro parli. Come diceva Paolo. E allora sì che c'è una radicente. Quanta gente che c'era all'epoca. Abbastanza veramente. Tutti i canali occupati. Sì, era una cosa. 4-5 canali occupati, quando poi c'era il Geo, c'era il professore, la roba per poterli. C'erano i pischerici, sempre sull'uno. Oramai sono tutti sull'otto. Sull'otto VHS. E infatti. Sono lì. Perché mio fratello lavora proprio sul pescherecce e sono lì. Oramai c'è un attavino, stiamo diventando rari, ma dobbiamo provare, ma ormai c'è il computer, che ogni tanto ci distrae, no, è una bella paranoia. E infatti, sempre un computer acceso, mamma mia. E non vuol dire mai. Una volta mi tocca attaccare proprio perché non ci vedo più. Ma d'altronde quando lui fa tante cose, fare ricerche per comprare roba, far vedere un po' come si smonta qualcosa. Poi chiaro che dopo un po' ti dà fastidio. Ah, poi ti prende, adesso che me ne ricordo, sulle prime ti prende a diarrea, a vomiti. Ah, proprio, allora è proprio brutta, è proprio brutta. Speriamo ora che non mi sia attacco, mi ci manca solo quello. Veramente, quella cosa lì non la sopporto. Oh, non è uscito nessuno oggi, adesso c'è tempo brutto. Sto guardando rara, ma sono ben poco i pescherici. Forse a largo c'è tempo brutto, capito? Ma non sono tutti dentro. Ah, però neanche uno forse. Forse vediamo se c'è qualcosa verso. Neanche verso. Neanche dalle altre parti. Forse c'è il mare un po' grosso. Sì, infatti, non si sono fidati, vuol dire. Vediamo un po' se c'è qualcosa sotto. C'è qualcuno avanti? Nessuno. C'è anche Gianni, si è sentito. Insomma, tutti la fissate. No, sono tutti a fare la spesa, la fare domani. Veramente Gianni sta lavorando di sera, quindi non può entrare. Non può entrare perché sta lavorando di sera. Me l'ha detto al telefono. Speriamo almeno che lo stiamo trattando un po' meglio. Con quello che c'è è un po' in salita. Questo è un po' ferito. Ha detto. Se vedi che non ti guarisce, pigliati 6 mesi di malattia in modo che ti guarisca e così rientri tranquillo a lavorare. Magari. fare, se ti guarisci in 3 mesi, dopo 3 mesi rientri. Natale non fa più così, no. Non fa più, devi stare attento a contarti i giorni, che fa senso. Perché io già lo vedo, per esempio, non va succedere. A Pavarilla l'hanno detto, vada tranquilla, vada tranquilla. Non hanno passato neanche un mese e mezzo, l'hanno licenziato. Ma dal 1 gennaio io so che lui può prendere 6 mesi di malattia proprio. Se poi li guarisce che lui sta col piede a riposo e tutto quanto, che non lo sforza né nulla, mica guarda, io l'ho visto come è messo mi sotto la pianta del piede, mamma mia, povero cristiano. Purtroppo io so che non è così. Ad esempio per il pubblico si contano, credo, 3 anni o 5 anni, cioè 3 anni, no? Dopo quelle assenze rimane sempre più figlio. E c'hai esattamente 6 più 6, credo che siano, insomma, 6 mesi pagati, 6 mesi metà stipendio, dopodiché è un casino. Beh, cosa vuoi che ti dica, è meglio che si informi bene Gianni. È privato anche il figlio, quindi purtroppo già lo sanno che i diritti dei lavoratori e poveracci li hanno, sono disintegrati, e a chi invece sta bene fa sempre meglio. Infatti che stanno sempre bene sono ricchi, che dice che non so quanto hanno aumentato come ricchezza, cioè non ci hanno perduto niente, ci hanno guadagnato non so quanto quest'anno. Ma cosa vuoi che ti dica? È un macello, Tutti i diritti degli anni ai lavoratori, quelli che avevano acquisito con tutte le battaglie, le cose, gli hanno tolto tutto. Tutto distrutto, tutto. Una politica dello così oppure di licenze. Forse sono tornati padroni alla grande, padroni di una volta, anche bugiardi, persistenti, incapaci spesso. Quanta gente ci hanno mandato a quei poveracci là dall'Alcoa, tanta gente che ha mangiato, poi se n'è andata, poi ci è contenti, vorreste di chiudere tutto, e così tanti altri stanno facendo con la fine, o hanno fatto con la fine. Adesso c'è anche l'ideal standard, sempre padrone straniero, che vuole vendere tutto e portarlo per la Romania, e tutti quelli a fatto. Perché qua è proibitivo, non puoi fare commercio. L'artigiano poi e il commerciante sono penalizzati a morte, figurati, non ti fanno lavorare, no? La causa degli artigiani che è un'altra cosa, ma stiamo parlando dell'industria che va a cercare gli schiavi, no? Siccome, tra l'altro, secondo la statistica, gli operai italiani sono tra i meno pagati d'Europa. E questi però ci sono quelli là, i romeni, che non c'hanno sindacati, non c'hanno nessuno. Quindi, 4 soldi, li licenzi dall'oggi al domani, tipo come erano prima i cinesi. A loro piace così, e quindi, soprattutto quando sono aziende straniere, no? Che non è straniere. Hanno poco, si trovano tutto, portano i macchinari fuori, dove le conviene, e poi fanno lo stesso. Sono cose vergognose. Guarda, ci sono, non so se li hai sentiti, quelli di quel call center, erano pagati a centesimi. E senza nessun fisso da percentuale. Sì, ma come si fa a prendere cifre di 78 euro al mese? È una vergogna, neanche non so il nome. Poi non c'è più dignità. Ti hanno tolto anche la dignità, non solo che la sovranità popolare, e la sovranità monetaria. Troia, ci hanno tolto tutto qui. Vogliono fucilati sulla pubblica piazza per altro tradimento, questa gente. Da Pruri in su. E anche andando prima. Stavo pensionato che l'era arrivata la pensione a uno di 0,00. Una pensione. All'altro l'è arrivata di 3 euro. Cioè, hanno fatto proprio le carte. Le comunichiamo che la sua pensione oggi è... Cioè, ma... Poi dicono perché la gente si suicida. Beh... una cosa del genere dopo una vita di lavoro magari ci arriva il tempo che si restituire 90.000 euro così anche rateali se non diciamo che erano pensioni di 800 euro sono una cosa allucinante e poi non c'è cosa fare, dice io aspettavo la vecchiaia per stare tranquillo e questi mi vogliono accabbare prima del nostro. Babbo che ha lavorato prima come dipendente, 50 anni babbo ha lavorato praticamente, che poi prendeva una pensione del cavolo. Perché così è allucinante, cioè non adesso ci aumentano la luce sotto sotto, è un classico, no? A fine anno ti fanno regali, è una cosa vergognosa, chi del 15%, tutti delicati poi. Come inizia l'anno nuovo ti tirano la mazzata. Infatti, tagliamo un picchio da qua. Claudio, ma c'è sei, lo so che sei nascosto, dai, io ci fu. Fatti. Poi Natalino, non t'hanno più cercato per... di tutto. No, negativo. E vuol dire che sono rassegnato. Non potete approfittare magari domani. Se non esplosivo nell'alfa, le posso fare una levantenza. Così almeno sono costretti a fare la nuova. No, che c'è l'antenna mia lì su quella che disturbo. C'è l'antenna mia, così crepo pure la mia. Va bene, approfitti, no. Dici, ci hanno sparato un pezzardo e sbollato tutto quanto, adesso facciamo tutto nuovo. A maliestrini, ascolta. Quelli sono capaci di far venire la Digos, se succede una cosa simile. Quando vengono, hanno sparato dei pezzardi, ho sentito questo botto, restato quel botto là, come si chiama quello? Quello più potente, quello di quel dittatore coreano. Vabbè che quello se ne fa scendere anche il tetto. Scusa. Mamma mia. Ping Yong-un, così si chiama. Quello lì l'hai visto, no? È più grande di un coso di caffè grande, di un baraccolo di caffè. In doppio quasi. Natalia ha parlato di mal di pancia, mal di stomaco, speriamo bene. Vai, io sai che ti succede a quello che sta per succedere a me. No, però adesso ci sono mal di stomaco. Non voglio andare in bagno, però. Guarda, io a quanto ho fatto arrivare in bagno. Perché se no, guarda, sarebbe successo l'irreparabile. Vabbè. Non sarei stato né prima né l'ultimo. Quando ti prendono certi attacchi, tipo così, se sei fuori, sei quello che fai altro. Ti prende, inizia a sudare, è freddo. È sempre da esplodere, guarda. Ma poi non ce la fai a trattenersi, malattori. Cazzo, come ti so che arrivi tu, guarda. Mia moglie l'ha presa a vomiti, gatta, lo stesso a diarrea, brutta, guarda, è proprio brutta questa influenza. Speriamo di no. Non vorrei iniziare proprio... iniziare male. No, è proprio mangiato quella roba che era... a me mi hanno convinto, prende la mano, a me queste cose così, con questa temperatura, quest'umido uscendo, entrando, non vanno bene, avrei detto qualcosa di più tranquillo. Sì, infatti. Adesso mi passo proprio un bel capodanno questo. Ma guarda, se fosse per conto mio, se devi cenare alla solita ora, guardare un po' di televisione e poi andarmene a letto. Ma mai no, non c'è più la voglia di fare queste cose, no. Non c'è tanto, poi se ne frega, tanto se ti di l'uno a pranzo, fa una bella mangiata e per me lo stesso. Sì, infatti, io idem mi contattato, a quell'ora mi curico e basta, tanto non... per me è un giorno come gli altri. Quanti anni c'è la famiglia? Ne ho fatto 60. E allora siamo sulla stessa, come si dice, coetanei praticamente. E io sono del 57, io sono quanto è Walter. Io ho 7. Li ho fatti questo mese. No, io li ho fatti a agosto. E sei mesi, neanche sei mesi più grande, dai. E comunque sono fatti scuri, io non ci credevo da tutto così, ma dai 50 ai 60 c'è una buona differenza. Sì. Molta gente si crede che sia uno scherzo. Non lo è, no. Non lo è. Sempre meglio arrivarci, giustamente, quindi si accontenta. Certo che però bisogna faticare di più, perché tutte le cose che risultano un po' più pesanti da fare, ecco. Ecco l'età. Adesso non stavo pensando. Walter 60 anni c'è. Ma chi Walter è il collega di Radio Anto? Sì, 60 anni c'è, è del 57 Walter. Era un po' qualcuno in più, sai. Ehi, magari io l'ultima volta che l'ho visto era diventato grasso, quando prima le prime volte che lo vedevo era un indietrino, non era così, è diventato grasso con un colpo. Sì, me lo ricordo anch'io. Beh, diciamo che magro non è stato mai, diciamoci la verità, perché lui era famoso per le colazioni con due o tre brioche, cioè due iniziava, poi finiva anche con tre o quattro. E vabbè, ma noi eravamo a quel punto che è adesso, si è appesantito parecchio, adesso sono da molto che non lo vedo. Io l'ho visto all'inizio dell'anno, credo, se non ricordo male, ed era abbastanza robusto. Sì, infatti. C'è il mio cane che mi sta guardando fisso, triste, con lo sguardo triste, se ne è accorto che mi sento male. Non vorrà uscire perché? No, con lo sguardo triste mi guarda, come se volesse dirmi qualcosa. Sì, lo fanno, anche i gatti lo fanno, quando esco a volte sembrano così. Dico, ma perché fai quello lì, perché non ci coccoli? Il fatto che sono tanti da coccolare. No, io ho questo cane qua, è una gatta. Qua è grande, qua ne hanno, quindi radio fanno anche da furia. Abusivi. Quindi tranquilla la cosa, a casa magari è più complicata quando iniziano ad essere più di uno. Pascolo abusivo sono quelli. Questo non c'è niente di... No, io lo sento, lo sento. Anzi, guarda cosa... Ma però non c'è neanche... È un periodo che bisogna stare proprio... organizzati, perché in televisione non c'è proprio niente, proprio... Cioè, vabbè, non è che ti guardi la ragazza invisibile, Globo Shopping, ma che... può dire che... non c'è neanche lì che aveva fatto l'interessante. Vabbè, le cose interessanti c'è il pagamento. Gianfra, volevo chiederti una cosa, ma tu cos'hai? Il radar vero e proprio oppure un programma che ti fa uscire il radar e lo fa funzionare? No, ne ho due, non c'ho quello che gira, se intendi quello. Non c'ho quello che gira, diciamo, quello che pensi tu. Cioè il radar tipo quello che c'hanno le torri di controllo con tutti i puntini, no? Praticamente c'è un ricevitore collegato al computer che ti dà la schermata e riceve i segnali che mandano tutti gli aerei, è situato con i militari perché se li prendono si affondano. E vedi un po' tutto quello che c'è in aria a determinate quote, della quota, rotta, tipo l'aereo, dove andare, dove tornare. Da me qua c'è una portata fino all'isola d'Elba e fino alle Baleari. A un certo tempo anche scendendo giù oltre Cagliari arrivo fino, non dico verso la Tunisia, ma quasi. Mentre quello marino invece, tipo adesso che non c'è nessun... non c'è preparazione, il controllo protocollo, eccetera, ed è un sistema che si chiama IS, ed è in VHS quello però, e ti esce la carta, lo stesso con tutte le navi che passano. Quindi sono due interfacce, là? Sì, si chiamano radio, radar passivi praticamente. Ma ora sono i radar, ce ne sono per gli aerei, insomma, per forza, no? Guarda, solo una di prima. Quella è dell'ENA. E fa proprio più o meno il suo lavoro. Praticamente controlla il traffico e da lì poi, tramite un collegamento a una sonda, lo manda alla torre di controllo. Ehi, c'è qualcuno? Ma forse mi sono sbagliato. Vediamo un po'. Avanti, break. Ciao Capri 2, ben ascoltato e auguri, sta domanda. Sono insieme a Natalino che sto andando avanti, lo senti Natalino? Sì, ma insomma lo sento. Ciao Capri 2, auguri per domani se mi ascolti. Gianfranco sta bravo. Se poi non mi arrivo benissimo, Alba, però... Sì, infatti stavamo parlando anche di quello, Natalino, ma... Mi sa che noi invece ci rimettiamo alla normale cena e poi andare su San Nanna. Vero Natalino? Questo è poco ma è sicuro. Guarda, no, non me ne parlare. Infatti stavamo dicendo che... quando si navigava sui 50 si stava discretamente bene perché si mangiava di tutto. Adesso che ci siamo imbarcati sugli anni 60, diciamo, dobbiamo essere più attenti per quello che mangiamo, per mangiare leggero la notte e tutte queste cose qua, se non sono dubbi. Beh sì, io ho iniziato a fare radio dall'età di 16 anni, quindi adesso ne ho 60, fate il calcolo. Guarda, non me li ricordo tutti. Io mi ricordo Carlo Simero, che eravamo anche amici, detto il lupo, poi chi c'era? Tore Chopin, poi insomma c'erano tanti all'epoca, era pieno. No, sicuramente no, perché io mi occupavo sempre, da sempre praticamente, di vari ascolti. Quindi c'avevo il baracchino, sì, però l'attività principale è stata sempre quella del radioascolto e dove tuttora, ma anche se ci sono grandi difficoltà oramai, capito? Quindi non partecipavo a queste, ci sentivamo in radio, allora lo conoscevo di faccione, attore lo stesso, ma anche attore alla Birdi. Grandi amici, poi senza mancare, insomma, tanta gente già la conoscevo, poi piano piano, insomma, siamo, non lo sai, no, come è andata a finire la 26. Sono influenzato, non sto bene, ha beccato a me e alla 50, tutte e due contemporaneamente. Sì, ma infatti basta un attimo. Questi pizzi certo sono guai, ma d'altronde con tutta la gente che c'è in giro influenzata è molto difficile non prenderla. Poi c'è chi resiste di più e chi resiste di meno, ovviamente, come sempre. Però è così. Purtroppo sono i cosiddetti mali di stagione. La cosa più fastidiosa sono quando ti vengono, quando prendi freddo e ti fa male adesso il collo, la cervicale, quelle cose lì. Anche quelle sono tosse, perché poi sono ripetitive. No, Polarsi si è allontanato magari. Natalino? Un attimo che mi ero spostato. Sì, si è spostato un attimino. E niente, è così. Poi c'era qualcuno che voleva entrare, vediamo un po'. Si fa parlare. Non lo so, perché sono cose da vedere con gli strumenti. Ogni tanto ce n'è uno su queste cose, ma non si finisce mai. Sì, sì, stai arrivando bene qua. Tu sei... Ah, non lo so, se non ricordo male, giusto? No, di apparati CB no. Non c'ho niente di vecchio. Tutta roba molto moderna, anzi, insomma abbastanza moderna. La cosa più vecchia che c'è qua è un ricevitore che non è un R61, che nonostante resta eccellente, poi c'ho altri apparati, però sono per altre funzioni, capito? Sono VHS, VHF, ultima generazione. E poi ci sono apparato, diciamo, HS militare, due militari e tre normali, tutto lì. Non ho capito, il G? No, non ce l'ho presente questo apparato, qual è? No, ma quella è roba tutti vecchia, vecchia, non c'è, no? C'è un bar, c'è qua di Cittale, e poi c'ho un apparato spalleggiabile, sempre una KS che è un adesso non mi viene un Glassman. Sì, vediamo se è rientrato Natalino. Già sono qui, già qua. Ok, allora dopo ti rilasciamo. No, io roba vecchia non ne ho, la roba che anche perché dopo un tot di baracco, capito? Adesso effettivamente sono un po' truffi che occupano spazio, io a me non piacciono gli apparati messi da una parte, anzi non ne ho proprio apparati messi da una parte, mi piacciono tutti gli apparati operativi, sempre che possono accendere con la loro antenna e così via. Quindi passione, cioè non è piccola, ecco, è una passione di dimensioni già già medie, forse medio grandi, perché se consideri che il mio apparato c'è la sua antenna, mi sembra una cosa un pochino impegnativa, oltre che molto molto costosa e poi richiede parecchia manutenzione. Eh sì, purtroppo, guarda, qua almeno siamo in tre. Mi dà neanche quello che può dire. Quindi se tu fai un costo di apparati, di antenne, di cavi, perché i cavi sotto la presentata sono costosissimi, insomma, è un pochino in salita la cosa, penso che sia al minimo, secondo me si potrebbe trasformare anche in una grande delusione. Io mi salvo, lo dico sempre, mi salvo solo da non smantellare tutto solo perché sono nato come SGPOL, e anche se la strada è molto difficile perché oramai è tutto digitalizzato e codificato, per di più la digitalizzazione digitalizzata non sarebbe un problema, il problema è che qualche cosa ascolti oramai è criptata e quindi il riascolto è un po' complicato, ecco. Tutto lì. Ok, ciao K2, ancora auguri e buona serata, avanti Natali. E ciao altrettanto, già alle prossime, dai. Ciao, ciao, anche tu, dai. Ecco, ma spero che non si senta mai con Natale. Sta facendo colazione, forse? Oppure è lavori forzati. Ah, perché c'è la zia. Così penso io. Se lui non entra vuol dire che è lavori forzati. Lui non si è abituato, deve essere un problema. Poi a quest'ora starà frazzando. No, pensando è troppo presto, ma sta facendo colazione. Ma no, si è addormentato. Oltre a cambiare gli orari dei pasti, avrà cambiato anche gli orari del sonno, no? Vabbè, sei nata lì, cosa ti dico? Adesso guarda, mi faccio qualche cosa di caldo, dopodiché me ne so, come dire, a cuccia, perché non anch'io non è che mi sono fatto più bene, questo la specie di mal di stomaco che stava crescendo, e vediamo un po'. Oggi, come si dice, a letto senza cena. E io che sto mangiando in bianco, dimmi tu, a che appunto so che arrivi tu. Vabbè dai, sempre. Io adesso me ne passo in quel Rix che devo fare cosa. Ci sentiamo alle prossime al limite, dai, auguroni per domani se non ci sentiamo. Già, sapendo sempre acceso. Anche la mattina molto poco. Ci sentiamo alla famiglia, auguroni, a te famiglia. E trovo che ti ricattagliamo per il 2018. Solo la salute, tutto l'altro può andare a farsi benedire, però almeno questo non ce la tocchi, no? Ci sentiamo alla famiglia. Ciao, ciao. Vediamo un po' se c'è qualcuno su questo canale di morti. C'è nessuno sul canale 10, cambio, faccio, compro e vendo. C'è nessuno qua, pronto? Pronto? Nessuno a questo canale di cadaveri. Cadavere sarebbe questo, non te lo dico. Un cadavere che è uscito a Pizzo. Guarda che noi abbiamo finito circa 20 minuti fa di fare questo, c'era Natalino e c'era anche K2. l'abbiamo chiamato tante volte e tu non c'eri. Vuol dire che non c'ero, non ero a casa. Oppure ero, stavo facendo cosa, io non ho sentito nessuno, capito? Ma già da 10 giorni che non sento nessuno. Scusa, c'era anche Natalino che stava male, poveretto. Ehi, c'ho mia moglie, ho 4 giorni. Io capisco, sei troppo amplificato. Aspetta che c'era qualcuno che chiamava su una frequenza che poco mi interessa, la mettiamo l'acqua così non si sente niente. Ecco qua. Sono amplificato, sono un po' lo stesso, sono Gianfra. Sempre lo stesso. Vabbè, sto usando il 430, non il 440, ma diciamo che due al massimo sono equivalenti, forse questa spinge un po' di più, non so. Vabbè, Sono invece ai tubi passato, no? Tubi, cosa vuol dire tubi? Tubi innocenti, tubi telescopici, pali, cosa ti serve? Pali telescopici per antenna, anche di quelli dei cieli. No, già fa, non ho mai usato quella roba lì. Solo è rimasta qualcosa di acqua da tre quarti, forse, qualcosa del genere. Ma da quando ho montato le direttive, subito faceva un po' di butto. Ci ho buttato tutto già fa. Se ero a lavoro, magari mi davi qualche giorno e lo procuravo qualcuno, anche in acciaio non si rabbia. Da un pollice, da tre quarti, capito? Anche da mettere uno dentro l'altro. Però non ci sono più, mi hanno preso anche le chiavi l'altro giorno, ho versato anche le chiavi degli impianti, quindi non posso entrare neanche a rubare. Sì, vabbè, la roba che produce Televisa non credo che la voglia nessuno. No, vabbè, io c'avevo anche le chiavi dell'officina, dove ci sono tutti gli spezzoni dei tubi e delle cose, dei lavori che seguivo io, capito? E molti sono anche in acciaio inossidabile, anche da un pollice, a due pollici, da quattro, capito? Roba interessante, spezzoni da 2 metri, 2,50 metri, 3 metri, quindi se era lavoro magari due spezzoni a innesto, tra avrei anche buccati, tra avessi fatto telescopico, 3 quarti e mezzo, però in acciaio inossidabile, roba buona. Finale lo ha un po' tolto. Sarà forte in questi giorni, veramente qua si va parecchio. E qua invece è passato di striscio, sì. Mi ha attaccato diretto il cavo del biforo col maniglione, figurati tu, devo filare. Solito un altro giorno agganciarlo, tanto non è che c'era così fretta. Io ho tubi pieni, tubi la manta va sempre bella ferma, ho 4 metri di coso di tubo d'acqua da un pollice, poi vabbè, direttiva ne parliamo, quella è eterna, anche se fa un po'. Volevo mollare gli ormeggi, da fra, tra un po' molliamo gli ormeggi, per arrivare al tempo buono. Venire a darmi una mano, vuoi smontare tutto lassù, tutto, rimettere dentro la scatola, conservare tutto e poi ci prepareremo al trasferimento. Sei deciso qui? Beh, tra l'altro lo devo vendere qua, Gianfra, sto aspettando chi ha comprato, sto aspettando la rimanenza del mutuo, penso che tra gennaio e febbraio, cioè tra gennaio abbia appunto tutti i quattrini e io intanto ho 6 mesi di tempo per andare via, sono iscritto, la prendo con calma, devo smontare tutto, qua vabbè già c'è una ditta specializzata per i mobili, tra quello eccetera, ma su me devo arrangiare io. Quindi appena fatto è un po' bello, è un po' buono, penso insomma tra febbraio e marzo dai, di poter togliere tutto lassù. Ma tanto il problema, guarda, che puoi incontrare. alluminio. Quando inizia a ossidarsi, tende a incollarsi, quello può essere un problema serio, soprattutto le mantova. Io infatti l'ho dovuta, dunque l'ho fatta fuori, durata parecchi anni, decine d'anni, però dopodiché ovviamente stando sempre su, sempre in aria, si è incollato. Così altre, anche per altre antenne, lo stesso, no? Che non è un profetto. C'è la matta che l'ha smotta, la faccia a pezzi e ce la butta la mondezza e la ricopre l'uomo, non è quello il problema. Mi interessa mettere a posto dentro le scatole le direttive, perché sono un peccato, perché sono da nuovo. Con calma, piano piano, si smontano, si mettono a posto, rotore, cavi, tutto. Mette tutto a posto in garage. Qua vicino, metto la roba, non serve, la metto lì. Però proprio, non sono preoccupato per niente. Se smonta, smonta, se non smonta, già fa. La volta butta qui, capito? Se la smonto, la metto lì interrato, intanto c'è ancora le chiavi della mansarda, quindi quella rimane a me. Perciò il garage, ora non mi serve, già ne ho spazio. Sì. Ah, quindi tieni, c'hai comunque la mansarda, non l'hai venduta? Sì, quella è un'altra cosa, cosa c'entra con questo? Quella è un'altra cosa. Mi ci vuole altre 60-70 mila euro di lavoro. Ma è abitabile comunque? Non c'è abitabilità, Gianfranco, non c'è abitabilità, perché quella era un'altra come soffitte. Invece l'impresa poi aveva cercato di tirare più su possibile per rendere abitabile, però non c'è abitabilità, capito? Quindi è una cosa a parte, sono discorsi che non posso fare qua, capito? Volendo posso realizzare qualcosa, ma non, in questo momento non mi interessa. Ma di là almeno, cioè, ho fatto una mano, forse si può acquistare un'antenna come quella che ho io, che non c'è la radiale, e va molto bene. Onestamente devo dire che fino adesso è quanto, forse anche qualche senso della mano. Comunque, già per quanto riguarda il 27 è molto la mano, qua, o questa, o la compro nuova, eccetera. Sì. Se non questa, visto che voi che ne approfitto lo stesso per mettere la nuova, ecco, basta già fra. Molto probabilmente vediamo qualche di polo, giusto, ce l'ho di polo che fa 10-20-40 mi pare che faccio, 10-15-20-40 non mi ricordo, capito? Come ero prima, no? Ho detto per ascoltare così. Più di tanto, non ho detto, non mi piace più. Ho proprio fatto biglietti, eticamente non fa. E poi niente, quando dormi la notte devo stare con tra lì, ci sale, scendi, e bim bum ba, si conserva tutto, poi sono sicuro che le dia qualcuno, tutta roba nuova, già fatta, comprata roba non c'è neanche 2 anni. Contro box, il rotore di Aesio, c'è il commutatore dell'antenna elettronica della Metrong, un bel impiantino, antenne sono tutte e due della PKW, metto tutto a posto, poi se capita l'occasione che serve qualcuno, lo vendo, se no rimango lì in garage, non mi frega niente. Sì, va bene, e anche io faccio troppa roba, oramai interesse c'è sempre, però non per parlare, c'è sempre rivolto questo modo di ascolto, eccetera, ma oramai già esiste una situazione, quindi questi disturbi, giusto per quel caso, è a parecchi che mi interessano, solo quindi fuori anche dal mondo amatoriale, ma niente spese più per radio o macchina. Tutto lì? Sto sbagliando il microfono, c'è 4,2060. Ehi, Giaffra, invece sono al contrario di te, non uso niente, non mi piace averla. Ho preso un'altra da poco. Ho già fatto 200 km per andare a prenderla, forse anche di più. Quindi, la radio mi piace continuare ad averle, anche se non le uso, Giaffra, non me ne frega niente. Però quella passione che poteva essere alla grande, perché insomma l'impianto c'è tutto, c'è anche un amplificatore da 2 kW, poteva essere interessante, non c'è più, quindi ho già sto io questa antenna sul petto a fare che cosa. No, però la conservo Gianfra e così. Serve la locale se capita di fare qualche corsia, perché no, arrivo liscio anche con il polo come ero prima, non certo ad altri risvegli, però aiutandoti magari con l'amplificatore, ma direi che non mi piace più, no, non mi interessa. Ma infatti, se te ne frega appunto, non vale la pena, tra preoccupazioni, cose, una cosa di qua, una cosa di là, sei sempre appeso, scoverando a caso. Meglio avere antenne tipo di fuga, almeno rompono meno le scarpe. Non prescindere che non mi metto a fare né scarpe, né talice, né niente, non mi interessa proprio, capito? Non c'è quella voglia di avere impianti del genere. Qua è stato fatto perché c'era un interesse particolare, portare il passo agli altri, ma poi chiaro che l'interesse è andato a lettere, perciò niente, però c'è un impianto favoloso, ho montato le colorate già fra. Montato non è, ho fatto tutto Fabrizio, ma ho montato veramente molto molto bene. Non posso lamentare per quello, le antenne sono ottime perché sono di grande marca. Ed è un peccato lasciarle lì, capito? Ogni giorno lo faccio girare il rotore, a destra, a sinistra, faccio andare tutto, però l'uso non manca poco fare, 20 metri, stavo ascoltando appunto due animatori qua locali che stavano chiacchierando, c'era Nord America, ho girato l'antenna, perfettamente tutto funzionante, buoni segnali, tutto, sia in 10, 15, 20. Però ti ripeto già fra, non c'è la passione per tenere delle antenne così in altura, per fare che cosa? Si rovina e basta, capito? Tutto lì. Sì, adesso mi hai fatto bene in mente una cosa, stamattina poi io passo quasi, non dico tutti i giorni, ma quasi, davanti lì nella strada che c'è di Milano. Ho visto che sulle antenne c'era tutta una cosa popolazione di volatili. E una, così come fanno anche da me, era proprio sull'antenna verticale, sulla cima. Io ho capito che giusto ci trovi ad andare su una punta che è più piccola di quanto sarà, di 20 centesimi. E c'era questo uccello lì sulla punta e tutti gli altri invece sulla direttiva. Sì, soprattutto quando piove i corvi vanno lì a asciugarsi, capito? Soprattutto sulla direttiva. Sì, ma non ne hanno mai fatto, non mi interessa. Quest'estate i cosi, gli stormi, completamente nera, cioè completamente non si vedono anche i radiati a migliaia. Allora come si arriva a casa, lavo due colpi di rotore, li vedete partire tutti assieme, capito? E vabbè, normale che sia i piccioni, ma soprattutto le cornacchie si posano sulle antenne, Gianfra, è più che normale. Vabbè, però ripeto, proprio in quel caso lì, perché le antenne sono molto robuste, non ho mai avuto problemi. Se fossero delle antenne di quelle stracco baratto, come si dice, magari qualche radiale avrebbero piegato, invece sono antenne molto robuste, la pick-up voluto fare le ultime antenne, e quindi come mi avevano consigliato, quelle avevo preso. Però, ripeto, girano ma no, sono sempre in ascolto, solo in ascolto, trasmissione ne hanno fatto poca, io a volte così saluto qualcuno in levato locale o anche stamattina c'è la vittoria in 40 metri lo stesso. No, molto in 40 sto io, molto in 40, in 20 pochissimo, stasera stavo girando, ho visto una cattura di spettro che era un po' impazzito, allora mi sono messo ad ascoltare lì, se no io sto molto in ascolto in 40, capito? Quindi non è che mi conosci più di tanto per avere altri tipi di antenne. No, io sono direttamente, come si dice, sono da confusione, per tutte le bande, proprio le soluzioni, perché sono antenne proprio ad hoc, quindi come stazionarie, come accordo, non ho problemi da nessuna parte. Anche in 160 vanno bene, quindi però insomma in 40 proprio sono quelli che invece non mi piacciono perché c'è troppa confusione, troppo caldo. E comunque anche lì ho notato gli italiani non sono tanti tanti e stanno veramente diminuendo ragazzi. Quando si lamenta le funzioni, ma guarda io ascolto così, però non mi rendo conto se sono le stesse persone, se c'è aumento di cose, ho capito, però sto sempre un ascolto lì, già va bene, ma potrei anche già andare per una multibanda, c'è anche quella multibanda della sempre la pick up con doppio, abbastanza robusta, però ti ripeto, non lo so, devo vedere, una volta che poi ho liberato tutto e sono tranquillo eccetera, che inizio, perché lì c'è anche un'altra bella stanza proprio mia, quindi questo tutto il sistema che c'è qua ci va a meraviglia, anche più largo, capito? E posso fare sia tutta la linea lunga oppure fare la L come qua, bisogna vedere. E poi ti dirò poi se saranno rose fioriranno, no? Si dice così. Sì, non c'è ombra di dubbio. Ripeto, ti conviene sempre fare qualcosa di normale, diciamo, senza grande fatica, anche perché dicendo le cose come stanno oramai. Il mio alto 10 metri, c'è anche la scala di quelle da 6 metri, però insomma ancora ce la faccio, ma non so quando si porta in là cosa succede, e poi si rimangono di locazione a terra, tanto ne ho anche una sul tetto, anzi ne ho tre sul tetto, quelle lì sono sul terrazzo e sono tranquilli. Però effettivamente è esagerato correre il rischio perché scale la legge fai a fila. Poi sono i più distretti già li sai, no? Voglio dire, poi la scala a Pontegno è pericolosa. Deve stare attento che non ci sia umido, che non sia bagnato, poi una scocciatura e basta. No, ma qua ti ripeto, fatti gli scherzi, ma il mio sistema è. Io ci arrivo tranquillamente con una scalettina in alluminio appoggiata al palo, ci sono quattro tiranti a libeccio, a fascione con le catene, è allucinante. No, io vado tranquillo, due metri, arrivo anche da poco. Prima di iniziare le piogge ho ingrassato tutto il cuscinetto, ho pulito tutto il rotore senza aspettare a montare niente, tutto è salito lì a livello, capito? È un bel sistemino, appunto mi dispiace, è fatto veramente molto molto bene, la Bertan c'è un cerebro, l'ha fatto Fabrizio, è un bel sistema, però se poi non lo usi, non ti devi stare lì a romperti le scatole, capito? Vediamo, ripeto, vediamo perché non voglio andare incontro a niente, capito? Devi comprare un traliccio, il carrello, quello, quell'altro, no, non spendo manco una lira, guarda, assolutamente. Possibilità di questo sistema com'è qua, non, lì non è possibile perché muro di facciate non è buco, se no mi fine buca la testa. e quindi niente, rimane tutto così, tutto così. Col palo, che è un palo con le contro cose, come veramente si dice, che è un palo veramente ad hoc, e lo userò per montare o un'antenna 5 bande oppure direttamente la manta, poi basta. Per il resto, una filare o due filari, finiti i discorsi, già fra, già va bene così, e tanto io non è che ho molto da aggiungere. CB ero, CB sono e CB voglio rimanere, no? Nella patente mi fa bene, perché posso detenere le radio e fare quello che mi piace, ma per il resto non lo sono mai stato, non lo sarò mai, io capito, quindi lo sai come la penso, forse è peggio di te. Beh sì, in realtà mi sono sempre considerato essere doppio L, figura, ma proprio per la mia passione all'ascolto, la tua missione, poi sì, c'è anche quella, però è proprio a livelli normali, tecnologici più che altro, non è una cosa. Ultimamente mi sto occupando solo di digitale, quindi analogico tra poco mi sa che se poteva così lo tolgo tutto, ma no. Gatta, la stessa cosa ti dico io, ti ripeto, ribadisco che avevo voglia di stare al passo, ma poi la voglia è venuta a mancare, quindi va bene così, Gianfra, continuo a fare il CB come sono sempre stato, con questo pezzo di carta che poco mi serve, però mi serve, e basta, non posso dire che sono dietro agli altri. Posso essere avanti, però dietro no, perché ho tutto quello che serve, anzi, l'ultima generazione, soprattutto gli HF, sono tutte nuove, eccetera, le antenne sono ottime, perché sono ottime, e quindi non è che mi posso lamentare, però è tutto come si dice, in un soffio di polvere. Infatti l'impegno si fa fare prima, ma adesso questo è praticamente diventato un lavoro, quindi siamo tranquilli, siamo tranquilli. No, ma io ti ripeto, non cerco niente, non voglio niente, per carità, già da quasi 2 anni. Quest'anno io sono al mio posto, non cerco nessuno, non disturbo nessuno, non mi interessa, va bene così, Gianfra, figurati, ci mancherebbe altro, anzi, oramai, poi adesso mi da quando sono in pensione, sto diventando anche mezzo rincoglionito, quindi figurati tu, cosa sarà fra qualche anno. Quindi ogni tanto ti dimenticherà la porta anche attaccata, oppure per trasmettere senza antenna, è normale. Infra, sto dicendo che eppure sono sereno, che non mi sono mai visto così sereno, perché sia mentalmente sono molto libero, ma anche finanziariamente, grazie a Dio, sto benissimo. Però ho questi alti e bassi, stamattina sono uscito, ho caricato, mi ha detto, meccanica interessa, sì certo, sono andato visto, ho caricato il telefono, mi ha mandato un messaggio, mi prendi il giornale, perfetto, ho preso anche il giornale, sono andato a fare colazione, poi una volta sono sceso giù lì agli punti dove c'è un Massimiliano per prendere il caffè, ma quindi c'è altro da fare, quindi non sono sceso. Sono per bel quadrato che c'è il giornale di nuovo. Adesso li avevo comprato l'edicola vicino a casa e li ho portati a casa, quindi sono tornato indietro, l'edicola è sotto a casa, li ho dati a mia moglie, ho detto sto andando a fare colazione, ti serve qualcosa? No, niente, ok, perfetto, ciao, ci vediamo dopo. Però al bel quadrato ci sono i giornali, ecco, di nuovo il giornale ho comprato, già fra, sono tornato a casa col giornale, ma ho detto ma tu sei, ma che cosa ti sta succedendo? Se me l'hai portato poco fa il giornale, di nuovo il giornale mai comprato. Capita, dai. D'altronde se devi fare il pensionato è giusto però anche fare quelle cose, no? Se no cosa sei andato a fare in pensione? Certo, non certo per scivolare i coglionismi, no? Ma per dirti, anche l'altra volta cosa dobbiamo fare, cioè cose così, no? Sembrano delle fesserie, però sto iniziando a preoccuparmi, infatti con le due, questione è fatta, ma forse, proprio sono per fuori, avevo contattato già uno qua in provincia di Sassari, per lavorare per questa radio. Ma ecco, te la spedisco, no, vengo io, proprio ho fatto una giornata tutta dalla mattina, sono entrato la sera alle 5, mi pare, e sì, sono andato fuori, proprio ho passato una bellissima giornata con un amico qua, proprio per evadere un po' la toccata per uscire, perché sennò davvero mi sto rincoglionendo forte, e sono andato a ritirarmi quest'ultima radio che ho comprato. Basta, niente, per dirti, cioè, a volte, quindi cosa vuoi, cosa vuoi dire? E poi un'attenzione che fa io, no, lascia perdere, che non devo rompere le scatole a nessuno e non voglio disturbare più a nessuno. Basta, quanto ho rotto le balle già fra, adesso, ma sono tranquillo e sereno, guarda, proprio, sono rinato. Ma che non ti ha preso, sempre un baracchino? No, ho preso sembrato di corteresso. No, una tre radio, grande, una tre radio, roba che è stata comprata, usata pochissimo, c'è ancora la pellicola nel display. Una bella radio che mi serviva perché è molto avanti, è all'avanguardia, eccetera. Gli altri le avevo tutelate. Andando perché c'era il doppio praticamente, è capitata un'occasione, l'avevo preso, ma poi sempre di ferma, ogni tanto l'accendo, sto dando un 275H, che è nuovissima, è bellissima, però non mi serve più, non mi serve più perché ho preso un sistema nuovo, quindi insomma, capito? Mi stai chiamando tu? No, dove? Al telefono, mi stai chiamando tu? No, negativo. Ho visto che si è acceso, se mi stai chiamando tu. E niente, quindi come vedi, passione c'è sempre. Piace avere, certo, male tutto qua. C'è un buchettino lì da sistemare, cioè quando si è abituato a avere tutto. E quindi abbiamo aggiunto un'altra SM20 e un'altra radio di, insomma, di ultima generazione, diciamo, chiamiamola così, va? No. Non sto fermi già fra. Fatto un bel pindibinà. E vabbè. Ci sono in più. Abbiamo fatto anche questa spesa, eh. Anche perché poi lì, diciamo, voglio fare una cosa diversa, più bella, solo la una testa e basta. Qualcosa di digitale non te la mette anche di molto economico, non ci ho pensato ancora. È una spesa che per me non serve a niente, perché io non sto usando niente, non entro più, non ascolto solo, capito? Questa radio più che usarla in altri modi non faccio, non sto facendo, ma è giusto per ascoltare, per basta, più completa, capito? Più insomma, più all'avanguardia, ecco, tutto lì. Prendo un digitale a fare che cosa, Gianfranco? A parlare con chi? Non. Mi sembra una spesa inutile, capito? Non, sì, ci stavo pensando giusto per completare le cose, ma alla fine non mi serve a niente, capito Gianfranco? Ascolti digitali, ascolti internazionale, che ogni tanto sono una chiacchierata. Ma non ti sto parlando di spendere cifre strane, non niente, dico di prendere gli apparati che ho io mentre parcheggio, ma di spendere 80 euro, 90 euro, è un po' facile, però quello che avanti a me ferma, e ascolti lo stesso. Sì, tipo quello che mi avevi dato tu, sì. Sì, si potrebbe anche fare, Gianfra, potrei pensarci, ma diciamo che l'idea di massima, ti ricordo mi avevi dato quel sito, ogni tanto accendo una teoria da ascoltare, c'è anche un altro sito, mi aveva dato Stefano, bellissimo, mi metto lì lo stesso ad ascoltare, ma a radio spente, capito a volte, giusto così, tanto per, però ti ripeto, secondo me, a caricarmi, cioè le portate, ti ricordi quelli là, no? Cioè mi hai capito? Sono sempre spenti, ogni tanto li carico, li accendo e poi li metto a posto, li carico, li accendo e li metto a posto. Proprio non c'è più quella passione, quella voglia anche di fare altro, perché no? A oggi già ne vai. Dipende, dipende da te, anche perché comunque vantaggio è che sono radio che non danno più RM, quindi non sentono fulmini, non sentono temporali, quindi comunque li puoi sentire, fa rimanere diciamo accese e usarle a modo di telefono, guardi, capito? Quindi così dovrebbero l'idea ascolti, ripeto, anche i vari TG che ci sono, infatti questo lo potete trovare bene, potete anche intervenire, magari se ti scrivi, insomma, tutto per passare il tempo, mica per altro. Sì, ma infatti è giusto per passare il tempo, aspetta, abbasso un pochino la potenza. Adesso che è calda la radio, ho visto che è salita la potenza, 4,30 è solo regolata, diciamo così a 20 watt. Sì, già fare, sono pienamente d'accordo con te, però ripeto, non è per gli 80 euro, potrei prendere anche a livello molto più alto e spendere molto di più, ma non è una cosa che non mi appassiona più che io, come fratello, proprio zero. Io sono 3-4 giorni che non andavo qua perché non c'ero, impegnati, lo fuori, eccetera. Quando c'è qualcuno qua facciamo due chiacchiere, giusto un'oretta, poi spengo tutto e basta. Nulla Gianfra, niente di niente. Ma io sto per la vecchia, come dici tu, no? Per avere più alternative. Ma infatti c'era poca gente, ma capito diciamo, non sento Marco, non un po' fare un Natalino, ma anche lui sta dicendo che c'era poca gente anche qua. Beh, la mattina ci siamo sentiti su WhatsApp, Marco lo stesso, lo più oggi mi pare non abbia mandato un messaggio, che è impegnato, sta facendo lavori a casa, quindi adesso passate insomma questi giorni di festa, ci sono domani, quindi insomma, il 31, fine anno, poi il primo, insomma, poi si inizierà nuovamente a essere un po' più frequenti, radio, sentirci, eccetera, eccetera, fare due prove, quindi due fesserie. Lo sai, questi giorni di festa, sei fuori, qui e là, c'è sempre gente a casa, un pochino, vabbè, impegnato anche dall'altra parte, insomma, non comprendo un po' di cosettine su in campagna, quindi niente di che. Però questi giorni di festa è chiaro, ti allontanano un po' dalla radio, là, ti allontanano un po', quindi spero che breve ci rimettiamo un po' in carreggiata e riusciamo a mandare avanti anche la 27 pian pianino, quei pochi che siamo rimasti. Sì, giusto per continuare a mantenere la passione, se no poi ci allontaniamo in maniera definitiva come hanno fatto i tanti, perché la maggior parte penso quelli che non si sentono, c'hanno sempre la licenza ma non è stato più. sono tantissimi. Infatti io sarò uno di quelli, sono già uno di quelli, Gianfra. Non me la farò mai scadere perché ti ripeto, a me piace la detenzione con le radio, ma l'uso no, e quindi non mi è mai interessato. Ripeto, c'era questa voglia di fare, ho fatto tanto, ho speso una barca di soldi, però tutto lì, cosa, non serve a niente. Quindi quella rimarrà un pezzo di carta per la detenzione delle radio e continuerò a fare il CB come ho sempre fatto, nonostante sono dal 93 da Napoli, ma io sono stato sempre presente qua nel 27, lo sai, quindi continuerò a esserci, anzi sono più qua che là, già da un bel po'. Vabbè. Domanda, cambiamo discorso perché non mi interessa proprio. Domanda Gianfra, tu hai per caso, il terreno che quando tu hai preso era già alberi oppure ne hai piantato qualcuno? No, da me c'erano già gli alberi, sono tanti che sono finiti, che precedentemente c'erano da lunissime. Qualcuno abbiamo dovuto tagliare anche perché era un po' malaticcio, oppure era in mezzo, non so come sono i pini, non si mettono dove non ci dovrebbero, dove non dovrebbero stare. Poi cosa c'era? C'era il suppesto, ma anche lì alcune piante a causa della situazione di quest'anno sono morte causa la siccità. Quindi qualcuno l'abbiamo sostituito, ma a livello di, che ne so, di albero di limoni o di pesche, insomma, ma quelle cose lì. No, beh, albero di frutta sì ci sono, ma no. Ma quella che serve in genere non mi interessa. No, beh, il viale ci sono sui pini, con un po' di abete, come si chiama, abete, sì. Bellino, il viale va bene, sarà una ventina di metri, 20-25 metri, non arriva alla cassa. Va bene, no, te l'ho chiesto perché doveva piantare qualche un altro proprio nel centro, lì dove c'è un bel pezzo di terreno. Mi stavo dicendo che praticamente bisogna fare domanda alla forestale, così è. Guarda, diciamocelo chiaramente, che se per ogni cosa vorresti fare le cose che ti chiedono, ci si pulisce, quindi prendiamo un pietoso velo, perché anche per piantare gli alberi mi sembra un assurdo, già ce ne sono pochi, posso capire la linea per tagliarlo, ma per piantarlo sarebbe veramente una cosa assurda. Anche perché è casa tua? No, vabbè, c'era quello del mio genere. C'è un padre molto scuso del mio genere che li ha portati tutti lui, bellissimi. Ha fatto molto belli anche le siepi, tutto bello ordinato e pulito. L'abbiamo lasciato la settimana scorsa, prima di Natale. Prima di Natale, bruciato tutto bello pulito, ordinato, portato via tutto. Bello raffreddato tutto. E poi c'è una parte dove tutto apparato, capito? Mentre l'altra parte della casa ci potrebbe mettere qualche altro albero. No, adesso c'è uno che fa la forestale, un fesso per loro, poi devi comprarlo non so dove, ha detto troppi passaggi, bisogna perché te l'ho chiesto e tu sei, ci sei prima in campagna, capito? E siamo già qua, ci sono tutti questi passaggi, già rimane così, non è che mi serva così tanto, va. Te lo prendi, te lo piatti. Sei un po' isolato, ma anche se non lo sei, già non te lo può dare nessuno, non stanno a pensare agli alberi che sta piantando di tutto. No, perché dopo l'epifania praticamente c'è un scavatorino piccolo che sta facendo la c'è un muro di recinzione dietro e quindi ne approfittavo per farlo fare lo scavo a metterci. Ma quella, li ho visti lì nella, si chiama Garde, come si chiama, quello che c'è nelle piante, nella Budi Budi, bellissimi, ma è poco gustani. Sì, su quello non c'è un bravo di affrontare cosa? Ma se iniziamo a parlare di autorizzazioni per mettere un po' casa tua, allora non stai mica costruendo un muro o allungandoti la casa, stai mettendo un semplice albero, un simbolo quando c'è. Anzi, se ne fossero gli alberi, avrei addirittura dato un incentivo per metterli. Di quelli che si perdono con gli incendi, capisco, questa cosa di rendere tutte le cose difficili, autorizzazione qua e là, è peccato, poi va a finire che costringe la gente a fare, la gente stare ferma, cosa vuole. Infatti, sembra una cosa un po' assurda, ma io, così mi hanno detto che i titoli c'erano per mi farlo meglio, adesso facciamo passare le feste e poi dal 2 mi metto in movimento, vediamo, se ho qualche amico alla forestale, perché quello che facevo già, ho avuto contatti in diverse occasioni, quindi volevo un po' di capire meglio se è vero o non è vero, se si può fare o non si può fare, o se vado, lo compro, lo faccio mettere, ciccia, capito? Va bene che va bene, per il resto è tutto a posto. Non c'hai WhatsApp, diciamo che avrei mandato due foto, l'ultimazione dell'arredamento, eccetera, eccetera. No, è bella, una bella cosa. No, non ce l'ho, non proprio. No, già abbastanza, è a te quello che devo mangiare, se non ci metto il tollo ogni 5 minuti fa pip, pip, pip, è meglio la casa, non c'ho niente, non le voglio fare le cose. No, guarda, io ce l'ho e... ce l'ho, però non sto bip. Guarda, è l'unico che siamo molto in contatto con Massimiliano, così sentiamo anche 2, 3, 4 volte al giorno. Però per il resto, adesso poi tra l'altro ho fatto un po' di pulizia perché colleghi li ho tenuti, però tutti i sistemi che avevo sul telefono, su altri uffici mi sono fatti togliere. Quindi il mio telefono era molto, molto impegnato quando ero a lavoro, quello sì. Alle 6:30 del mattino io lo accendevo e anche sino a tarda serata era sempre in collegamento lavorativo, adesso invece è molto più silenzioso già fra, quindi non mi preoccupa quello, però è utile questo sistema, capito? Perché chi ce l'ha fa due foto, le mandi, io siamo lettori tra una settimana prima di Natale, stavano facendo, mi tenevano per non stare lì, sembra che stia facendo un capocantiere, non me ne ha fatto nulla, c'è un'impresa col geometra, quindi non dovevo stare lì a... E quindi quando facevano qualcosa mandavano la foto, dicevano ah ok sì, bellissimo, va bene, capito, c'ho 3 foto e tutte le cose che stanno facendo, poi tutto l'arredamento che ha arrivato eccetera. E va bene, per quello che ho detto, ti ho rimandato qualche foto anche per fartela vedere finita, è una bella, molto bella. La figuretta non ci sequestra, no? No, ma è rimasto più o meno, sì, abbiamo fatto fare tanti lavori, eccetera, ma poi al dunque non è possibile andare oltre, sia proprio per i costi, capito? I costi sono notevoli e già li abbiamo affrontati all'inizio per mettere un po' le cose in sesto, ho fatto l'impianto, insomma cercano tanti bei soldini, ma veramente tanti, ho messo il cancello faccio io, faccio la pure. Insomma, ci vuole tempo e denaro, e ancora di più ce ne vuole per la manutenzione, perché ogni tanto devi, cioè molte cose sono tanto le faccio io, se no guai, sarebbe un fiume di denaro, proprio in tutto. No, Gianfra, io manutenzioni me le faccio io. Ma che c'entra che ho piazzato lì proprio settimana prima di Natale? Ho detto, però c'è l'altra parte del muro che devono fare dietro, per tirare sulle le gratte, chiamale come voi, diciamo, non rette, il sistema muro, poi le gratte, insomma, una cosa bellina, quello ti volevo far vedere. Poi per il resto no, il calice di manutenzione lo faccio io, no, ho già comprato il genere rasa erba, io vabbè ce l'avevo già, l'avevo portato dal lavoro, il cespugliatore, l'attrezzatura per il verde, le cose me le faccio io, stai scherzando, le miciature, quelle cose lì, anche se l'impresa mi era tutto finito, non è che non c'è da fare. Sì, ma quando c'è l'impresa non fa cosa, capisci, tu hai giunto, distrugge. Qua invece era già fatta, quindi si trattava proprio di rimettere le cose in ordine. Però anche se grande, eccetera, non c'ha la prerogativa di essere una villa di lusso, ecco. Sì, ma infatti no, erano... sono stati fermi un paio di mesi, forse, non so, non mi ricordo, un mese e mezzo. E poi, quando è arrivata l'altra parte della liquidazione, ho continuato avanti da voi. Capito? Aspetta che spiego. Come hanno andato avanti i lavori? Adesso stiamo praticamente agli sbocci, alla fine già. E piano piano ci hanno detto l'estero del fratello che avevo. Adesso però c'ho l'occhio in definitivo di qua, che c'è una parte già l'atta, adesso sto aspettando, l'occhio di hanno già l'atta, ma sto aspettando l'altra parte del mutuo che ha comprato, e poi basta. E poi c'ho 6 mesi di tempo, per faccio l'atto, c'ho 6 mesi di tempo per andare via. Li ho presi perché mi servono quei mesi lì, tanto questa non la figlia si deve sposare a fine del prossimo anno, nel 2018, quindi io ho tutto gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno, sono gli sposi a settembre e ottobre, perciò va bene così, va benissimo alla grande, senza fretta, senza niente. No, sempre piano, oramai abbiamo finito di correre. Dimmi una cosa, ma c'è anche il posto? La prima cosa che ho fatto fare. Sì, c'è il posto e anche la diretta, c'è il posto e anche la diretta. Tutto quello mi hanno fatto. La diretta mi hanno fatta in giornata, se no aspettavo lo solo il capocollo e i miei colleghi. Sì, anche noi ci abbiamo tutte e due. Tutte e due cose, anche se quella del comune mi sa che conviene metterla in stand-by, perché è troppo forte veramente, cioè i filtri che mi sta massacrando, diventano marroni un po'. No, Gianfra, io sono fortunato perché sono molto vicino alla linea di divisione, capito? No, l'ha fatto subito. Ho fatto la domanda il giorno prima, il giorno dopo, subito immediatamente sono tutta la squadra, anche perché c'era l'impresa già che aveva messo tutta la linea, sono venuti e mi hanno collegato tutto, c'è il contattore, già tutto, luce, tutto, luce TV, c'è anche la DSL. Sì, tutto, ho fatto mettere tutto. Tutto completo, Gianfra, devi avere tutto, capito? Con segnale del telefono è micidiale, c'è la firma che è sempre a manettone, ma arrivano tutti. dimmi, vola su tutti. Sono molto alto già fa, molto alto come gioco, arrivano tutti. Però non era quello il problema, è per avere insomma un computer come cristiani e viaggiare come cristiani. Qua sono con un sistema diverso, però la verità non mi sono mai lamentato. Va bene, per quello che lo uso anche lì, computer, lui. Allora, in un mese io penso che c'è il computer due o tre volte, guardo le mail, a volte ci sono 50, 60, 100, 120, le leggo, se non mi interessa se no, elimina, clicco, e rispengo il computer, figurati due volte mi interessa, ma più che altro la mia figlia le serve. Io non sento niente, c'ho QRM a Santiago 3 e basta. No, io perché tengo sempre fino a F3 ero questo, praticamente sono sempre del tutto. Quindi tanto più si muove, se si è rotto. No, io niente, ho già iniziato a spegnere l'altra radio, questo è 40, adesso fra un po' mi sono le 8:20, fra un po' andiamo a pappare, spengo tutto, chiudo la finestra, c'ho la finestra aperta, che verrà a morire, sono 23, quasi 24 gradi, e io non mercato perché mi piace molto, qui c'ho la finestra aperta, fra un po' la chiudiamo, ci andiamo a pappare, e anche oggi abbiamo l'atto, domani è domenica, e su che andiamo. Adesso quando sei a casa le domeniche sono più fastidiose perché è un po' così, no? Ah, lo sai che mi stanno piacendo più le domeniche che la settimana, perché la domenica, cioè la domenica no, di questo periodo, guarda, io di questo periodo l'anno scorso ho fatto il 25, il 26, poi tutta la settimana il 31, ho lavorato di mattina, avevo reperibile fino a mezzanotte, in più il primo dell'anno ero di primo turno, quindi dalle 6 alle 2, fatti il conto tu come ho vissuto il fine anno io, invece quest'anno sono proprio libero da tutte queste cose, e la mattina Gianfra, guarda, il mio motto è quello, non mi alzo tardi perché sono abituato dopo tanti anni a alzarmi presto, mi sveglio, apro gli occhi come facevo prima alle 6, poi quando mi sveglio accanto verso le 8:30 così, vado a fare colazione, un'occhiata al giornale fino alle 9, 9:10, sempre occhiata alle 6, e poi ritorno a casa, mi prendo il cane, lo porto fino alle 10 così. Una volta che il cane è a posto, chiedo a mia moglie se c'è qualche commissione da fare, se c'è commissione da fare vado e faccio, e se no prendo la macchina, mi faccio un giretto, così, dove capita. E posso dire che non mai più dopo mezzogiorno sono a casa, sempre. Esco un'oretta e mezza, poi mi rientro a casa, mezzogiorno, mi accendo la radio, così, giusto ascoltare, con una sigaretta, aspetto che all'1, all'1:15 si pranzi, e poi la sera passa tranquillamente. La mattina è un po' più tosta già fra, però non è che faccio niente di particolare. Lunedì, vedi, mi piace andare al mercatino, c'è bella giornata, fa una passeggiata, prendo un po' di frutta, faccio queste cose, mi abbatto. La vita è pensionata. La vita è rincoglionita, ma pensionata. Niente. Adesso il problema sarà l'estate. Ecco, allora lì è un discorso diverso. Perché sarà il primo anno dove ho tutta l'estate a disposizione, quindi me ne andrò al mare con mia moglie, insomma. Ammazzo meglio il tempo, poi sicuramente quest'anno sarà molto, molto, insomma, più organizzata la cosa, perché prenderò una casa lì dove lavoravo, mi piace tantissimo, lì nella zona Trinità, è molto bello, è molto tranquillo, molto in quel villaggio dove io ho gestito per anni. Andrò lì a farmi un mesetto intero, proprio nel periodo a cavallo tra luglio e agosto, e che fa? Si raccampa, altro tanto lo puoi fare, non è che ti vuoi andare Bahamas, no? Ti vuole colpi di naso, cercherò di gestire almeno il periodo estivo meglio di quello invernale, cioè, perché l'inverno a me non mi è mai piaciuto uscire già fra, quindi non mi è mai piaciuto stare in giro o con il vento, con il freddo, perché non sai dove andare, quindi gestirò meglio il periodo estivo che quello invernale, ma sempre nell'ambito della restrizione masca, non pensare che vado a buttarci via i quattrini, non me lo più assoluto, giusto così, sarò più libero, dai. Poi magari se sono pure anche nipotini, sei ancora più impegnato. E quello se mia figlia si decide, ma in questo momento sono tutti e due impegnatissimi, anche perché mio genero ha aperto un altro lavaggio, a Fedaneda, nonostante abbia quello di Suaussi, ha aperto l'altro di Fedaneda, quindi è impegnatissimo, fa sempre vai e vieni, perché su c'è un operaio qua, c'è lui ma c'è anche un altro operaio, quindi stacca, mia figlia sta lavorando, fa la spola dal Tanit qua a Monserrato, la Monserrato al Tanit, molto impegnata anche lei. E quindi voglio darmelo a un nipotino che me lo diano, già c'è la mamma e il nonno, la nonna e il nonno che già si erano a fare, poi figurati, io ce l'ho già il nipotino, c'ho Filippo, più nipotino di quello, non gli rompo i balli che sta presentando, guarda, non ti lascio un minuto, è sempre appresso, sempre sembra uno di quei bambini disperati. Anche lui è un po' vettaggio a Calabrassi, quindi dice, beh, adesso che sei in pensione ti puoi dedicare un po' di più a me anche. Ma c'è sempre con me, ma chi lo molla? È sempre con me, sempre in giro con me. Io ho una macchinetta, l'ho comprato l'anno scorso, sto dicendo, forse a febbraio di quest'anno, sì, forse a gennaio o a febbraio di quest'anno. L'ho tutta fatta mettere a posto da Roberto, il carrozziere, io sto così, me lo porto sempre appresso perché con l'altra no, che c'hai l'interno in pelle, quindi magari con le zampe, lui si tiene sempre dietro, c'ha un suo club, sta lì, è sempre con me, cosa vuole, e a dormire non me lo posso mettere nel letto perché è un cane da 40 kg, dopo ti dici, fosse stato un cagnolino piccolino, ma sto diventando un rompiscatole perché è sempre attaccato, non ti muova, era qua e se n'è andato, forse c'è il pavimento troppo caldo, e se n'è andato dall'altra stanza con le calze per terra, se no è da una stanza all'altra, dove mi muovo io è sempre lui in mezzo ai piedi. Mamma mia che rottura, guarda, è proprio un bambino, sta mangiando, ti si siede a fianco, ogni lì, c'è anche io, mi sta mangiando che cosa, mi raccomando. Allora ogni tanto ho qualche pezzettina di roba, ma lui ha già mangiato la sua ciotola di carne macinata di cavallo con un pochino di pasta, no, meno pasta che molta più carne, però sta sempre chiedendo, allora, tipo, vedete, sta masticando, lui è sopra che vuole qualcosa, quindi già sono impegnato. Non le cambio il panolino, ma lo porto tre volte al giorno, è sempre con me, quindi anche a me già mi impegna. Però, sai, i bambini sono bambini. Quanti anni ha? Filippo, 5 anni c'ha già. E allora non cambieranno, da bambini? Sì, dove, come bambini. Ah, ti faccio ridere già fra. L'ho preso adesso perché ogni anno gliela compriamo nuovo, c'è cioè la sua brandina, il suo proprio bollettino vero e proprio per cani. E venne nel salone, avvicinato io, lui sta tutto il giorno lì coricato, più sollevi la televisione e lui più russa. Perché? Perché c'è la luce. Quando noi andiamo a dormire, lui mette appresso, vuole prendere la brandina e mettergliela vicino al letto, no? E tenere, ho dovuto comprare una luce di quelle di cortesia alla Elcon, perché non mi fido dai cinesi, proprio della Elcon, stella Ticino penso che sia, e vuole tenere quella luce accesa, capito? Quella luce accesa, se tu gliela spegni, lui prende e se ne va, e sta tutta la notte camminando, a destra e a sinistra, capito? Proprio per dispetto, lui torna a noghie. non si, poi sembra ci abbia le ciabatte, no? E poi le unghie ce le ha perché l'ho portato a lavare da poco e le ha anche tagliate. Lui quando cammina il peso non si sente tinchi, tinchi, tinchi, tinchi. Quindi sta tutta la notte rompendo le palle, andava tornando, allora devo tenere la luce accesa. Allora viene e si curica. Comunque non accompagna niente. Oramai invece prendo le gatte a trovarmi, mi chiamano, hanno fame, insomma quando vogliono loro già si fanno capire. E il gatto? Fino già si fa capire il gatto si fa capire, sì. No, ma lui già si fa capire, non ti preoccupare. Lui sta lì. La cosa bella di questa razza del cane è che non ti rompe le scatole la mattina, non è spiegarsi alle 6, come c'è tanta gente che alle 6 del mattino devo portare il cane a fare pipì. No, no, questo mantiene una cosa allucinante, ma tutti questi tipi di cani, un loro inglese, un loro francese, il carlino, una razza dei molossi, un po' così, capito? E quindi lui prima alle 9:30, alle 10, immaginati, mi alzo prima io, vado a fare colazione, se devo comprare qualcosa, poi torno ed è ancora dormito sopra a Gambi. Allora lo sveglio, aiuto, alzati che dobbiamo uscire. E lo porto. Se no lui, se non lo rompi le scatole, lui continua a dormire e russare la mattina. Sì, quante sirene che si sentono. Cosa sono tutti del posto? No, negli ambulanti io ho il 118 giù all'angolo di Venezia, poi c'è l'altro qua su, ogni tanto parte qualche ambulanza, capito? Capito mi hai già fatto, e quindi piace la compagnia, no? Manca lui adesso, diciamo, e mia moglie, noi ricoglioniti a casa, sarebbe veramente un disastro da fare. Almeno lui ti impegna un po', diciamo, non parla mai come che parli, perché viene, ti stuzzica a giocare, a fare un buoncione, dentro casa, fuori si trasforma, fuori sta diventando un pochino monello, sta iniziando a bagliare, a fare, capito? Io non voglio che sia così, è un cane molto, molto tranquillo. Ah vabbè, vabbè. Sono le 20 e quasi 35, io ti saluto, grazie alle due chiacchiere, come vedi non si è sentito un cane, ma c'è tanta gente che sta ascoltando, ma io vi saluto cordialmente, chiunque fosse in ascolto, augurandole un buon fine anno a tutti, e a presto, Gianfra, dai, al limite ci aggiorniamo domani, tanto guarda io sono a casa, non dobbiamo andare da nessuna parte, perché ti ripeto, se mia moglie è già 4 giorni, così sono entrato proprio con questo sintomo influenzale, con questo casino, e vabbè, speriamo che passi comunque, domani dovrò essere a casa e a casa siamo. Di nuovo un augurio a tutti di buon anno, chiunque fosse in ascolto sul canale 10. A te Gianfra. Sì, anche io domani sto a casa, quindi è probabile che ci sentiamo, ma nel caso non sia così faccio tanti auguri a te e alla famiglia. Cerchiamo di mandarci via per attaccarci nel sapere questo 2017 che è stato veramente più che schifoso. Speriamo nel 2018, dai, un anno, un numero più simpatico sicuramente. Ciao Claudio, alle prossime, buona cena, buona serata. Grazie Gianfra, sono pertanto a te famiglia, beh dai, io non posso dire il contrario perché il 2017 mi ha portato la pensione, quindi devo essere sincero, però speriamo che il 2018 sia meglio, o per peggio e peggio, è andato bene anche il 2017, dai, non ci possiamo lamentare. Ciao Gianfra, un abbraccio. Sì, sicuramente ci sentiamo domani, dai, tanto io sono a casa, quindi a quest'ora siamo qui qua, quindi ancora è nella fase di preparazione, perciò sicuramente ci sentiamo. Ok, rinnovo gli auguri a tutti quelli che sono in ascolto, se qualcuno fosse qua sul 10. Buon anno a tutti, a domani, ciao Gianfra, grazie. Ciao.